Europa 24. In apertura torniamo immediatamente sulle attese e decisioni della Banca Centrale Europea. L'avete sentito anche poco fa in effetto giorno nella corrispondenza con il nostro Alessandro Merli da Francoforte. La BCE ha tagliato i tassi di interesse dunque nell'area euro. In diretta qui accanto a me Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno Piera. Era una decisione quella di oggi di Mario Draghi, che già il Financial Times vedeva come nei panni di Roosevelt per un New Deal europeo, sulla quale ovviamente si concentravano gli interessi proprio di tutti gli osservatori in Europa già nei giorni scorsi. Ha deciso la BCE di tagliare i tassi dallo 0,15% allo 0,05%, un taglio anche per il tasso sui depositi che passa dal meno 0,1% a meno 0,2% e per quello marginale che passa allo 0,3%. L'euro subito è precipitato sotto 1,31 sul dollaro, è andato giù anche lo spread, vero? Vedo ora dall'agenzia impicchiata dopo il taglio, è sceso a 141 punti, mentre il rendimento è di 2,33%. Il nuovo record porta il decennale italiano sotto i livelli del T-bond americano, che anche per effetto del deprezzamento dell'euro ora paga un rendimento di 2,41%. Insomma, le borse europee, come avete anche sentito poco fa, sono positive. Il FTSE MIB è in rialzo dell'1,35%, Francoforte l'indice è in rialzo del 0,30% e di un punto percentuale Parigi. Quindi reazioni positive da parte dei mercati. Tra circa mezz'ora ci sarà il discorso molto atteso del governatore Mario Draghi, che risponderà alle domande dei giornalisti. C'erano, come dicevamo, molte aspettative dopo il discorso qualche settimana fa di Jackson Hole di Draghi in compagnia di altri governatori centrali. Il governatore della Banca Centrale Europea aveva detto: il rischio di fare poco riguardo alla crisi è maggiore del rischio di fare troppo poco, e questo era stato interpretato da molti operatori come propedeutico a qualcosa di importante, non già a questo taglio dei tassi ma magari all'acquisto addirittura di titoli anche pubblici. Vedremo cosa dirà Draghi quindi fra mezz'ora. Per il momento, come dicevamo, tutti i monitor economici stanno reagendo positivamente. Grazie a Valentina Furlanetto. Staremo dunque a vedere quali effetti avrà la decisione della BCE anche nelle prossime ore sui mercati. Parliamo invece ora della crisi ucraina, da oggi sul tavolo del vertice NATO in corso a Newport in Galles. Fra oggi e domani dovrebbe arrivare la decisione degli stati membri dell'Unione Europea sulle nuove sanzioni contro la Russia per le sue azioni in Ucraina. Intanto il presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, Elmar Brok, fra i più stretti consiglieri di Angela Merkel, sostiene che l'Europa non deve arretrare sulle sanzioni contro la Russia, almeno finché Vladimir Putin non farà passi concreti nella risoluzione del conflitto ucraino. Sentiamo allora Brok nell'intervista di Sergio Nava. No, first of all, we have seen then immediately afterwards that Putin has said there was not such an agreement, and we have to see. Non mi fido di Vladimir Putin. Ieri ha subito precisato che non c'era un accordo per il cessate il fuoco. Putin mena sempre il can per l'aia, senza mantenere le promesse alla fine. Sono dunque molto sospettoso. Non vorrei che il suo unico obiettivo sia quello di guadagnare tempo aprendo un dibattito prima del summit NATO. Io penso che i 28 paesi europei debbano approvare le sanzioni comunitarie contro la Russia. Non vedo infatti ancora negoziati reali o progressi veri nella crisi. Solo in quel caso potremmo eliminare le sanzioni. Ma finché ci saranno truppe russe nell'est dell'Ucraina, non dobbiamo cambiare le nostre politiche. Penso infatti che le sanzioni già approvate dall'Europa abbiano avuto effetti importanti. Rappresentano infatti un costo per la Russia, soprattutto nel settore finanziario. E noi intendiamo limitare ulteriormente la possibilità della Russia di finanziarsi, dopo che già numerosi capitali hanno lasciato Mosca. The possibility of Russia to refinance after so many capital has already gone away from Russia. Immigrazione, stiamo discutendo di una nuova operazione congiunta nel Mediterraneo che si chiama Triton, ma la nuova operazione non sostituirà Mare Nostrum, poiché questo non è consentito né dal mandato né dalla disponibilità delle risorse. A parlare così il direttore esecutivo di Frontex, Gilles Ariat, in un'audizione all'Europarlamento. Le risorse che dovrebbero essere impiegate per Triton sono circa 3 milioni al mese, ha detto Ariat, secondo cui la nuova operazione partirà a due condizioni: la disponibilità dei fondi che saranno trasferiti dalla Commissione europea e la disponibilità degli Stati membri a partecipare. L'Italia rischia di pagare una sanzione da 158.200 euro al giorno, più una multa forfettaria di 60 milioni di euro per l'uso e mancata bonifica di discariche illegali. È la richiesta formulata dall'Avvocato Generale della Corte Europea nelle conclusioni della causa fra la Commissione Europea, appunto, e l'Italia. Ed era l'ultima notizia di questo appuntamento con Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.